Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Lo so, potrebbe apparire piuttosto, come dire, impopolare parlare di scuola a fine luglio, quando tutti i nostri bambini piccoli e anche un po' più grandi si stanno godendo le vacanze e vorremmo lasciarli in pace. Però in vista del ritorno sui banchi di scuola a settembre, per i genitori, per le famiglie, è già suonata la campanella delle spese che bisognerà sostenere per il nuovo anno scolastico. E puntuale come le tasse, torna il tema del costo dei libri di testo. Le famiglie, credo che anche se con qualche settimana di anticipo, hanno già avuto modo di farsi un'idea di massima di quanto spenderanno, spesa particolarmente impegnativa se si considera chi passerà dalla scuola media alla scuola superiore, perché in questo caso ovviamente il corredo dei libri andrà comprato ex novo, andrà rinnovato integralmente. Allora, a suggerirci di affrontare su questo tema, anche se come vi dicevo con qualche settimana di anticipo sull'avvio dell'anno scolastico, è stata questa lettera che ci ha scritto questa mamma. Buongiorno, sono una vostra fedele ascoltatrice e ancora una volta mi rivolgo a voi per ottenere un po' di giustizia. Mio figlio 14enne si è iscritto al primo anno dell'istituto per geometri e io sono andata a cercare i libri usati perché il ministro Gelmini ha proclamato che i libri non si cambiano più per 5 anni, ogni modifica deve essere venduta in fascicoli separati. Invece i libri sono tutti edizione 2010, cioè nuovi, non rintracciabili usati e comunque molti hanno un'estensione web, chissà cosa sarà mai e se verrà mai usata, che non viene venduta separatamente, così non posso certo comprare l'edizione del 2009. Possibile che in Italia valga sempre il detto che fatta la legge trovato l'inganno? Vorrei informare anche il ministro di questa cosa. Forse se lo sapesse potrebbe intervenire presso le case editrici, ma non so come fare. Grazie per l'attenzione, Maria Teresa. E anche noi salutiamo Maria Teresa e facciamo questo argomento tutti gli anni in questo periodo, però insomma anche alla luce di quanto ci ha raccontato questa signora sembra che i problemi rimangano un po' sempre gli stessi, almeno nelle percezioni delle famiglie. È vero che le adozioni dei libri sono bloccate per 5-6 anni, ma secondo quanto denunciano i genitori i prezzi continuano a salire anche se il testo non ha subito modifiche. E poi la novità di quest'anno: per la prima volta gli insegnanti sono legati a questa legge, la 167 del 2009, che ha convertito un decreto, il numero 134, sempre dello stesso anno, che stabilisce che tranne qualche rara eccezione i libri che sono stati adottati lo scorso anno andranno necessariamente mantenuti. Ma per quanto tempo? Cosa significa esattamente tutto questo? Voi capite bene che è molto difficile che una famiglia si possa orientare in tutto questo. Allora noi stamattina abbiamo interpellato 3 persone che potranno aiutarci a capire meglio come comportarsi anche di fronte a questa spesa che comunque rappresenta, è inutile negarlo, un vero salasso per qualche famiglia, soprattutto ribadisco quando ovviamente si cambia rango, si cambia scuola, si cresce, dalle medie si passa alle superiori, quella è veramente una fase un po' per qualcuno economicamente complessa. Davide Guarniere, presidente nazionale dell'AGI, l'Associazione Italiana Genitori Onlus, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Bentornato a Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Presidente Rusconi, buongiorno, grazie anche a lei. E buongiorno e benvenuta ad Etel Serravalle, responsabile del settore educativo dell'AGI, l'Associazione degli Editori Italiani. Buongiorno, dottoressa Serravalle. Buongiorno a lei e agli altri interlocutori. 800240024 è il numero verde che dà l'opportunità alle famiglie, alle mamme, ai papà di interagire con noi su questa mattina su questo argomento. Ci piacerebbe proprio sentire un po' come vi state muovendo per fare in modo che questa spesa che è dietro l'angolo ed è prevista appunto più o meno per settembre sia un po' più leggera per il portafoglio di tutti. 349-238-6666 invece, se invece di telefonarci volete scriverci. La borsa rapidamente, oggi il quadro è piuttosto positivo di nuovo in Europa, nonostante Wall Street ieri sera abbia chiuso in misura debole, in maniera debole. Parigi sale dello 0,49%, Francoforte più 0,57%, Londra più 0,63%, la regina di oggi ancora Milano che segna un più 0,88% sul FTSE MIB. Oggi acquirenti molto forti, mani forti su Geox che guadagna 5,5 punti, questo è un titolo che questa, una seduta di questo tipo non la vedeva da tempo. Ancora bene il settore bancario, UBI oggi miglior titolo più 3%. Fronte Fiat, Lingotto, Exor più 2, Parmalat oggi comunica i suoi risultati societari, guadagni il 2%, Saipem è più 1,98, Mediobanca più 1,88%, anche Enel comunica i dati, anche Mediaset, anche Piaggio, anche Pirelli, anche Fastweb. Poi Italcementi più 1,87% e Azimut più 1,83%. Segno meno invece per Finmeccanica che perde 2,5 punti. Ansaldo ancora in flessione da 3 giorni consecutivi, anche oggi meno 0,87%. Volevo solo segnalare sul fronte dei titoli di Stato che c'è stata oggi una buona domanda e rendimenti in calo per i BTP e i CCT EU, cioè quelli che sono appunto le nuove tranche, le nuove emissioni appunto da parte del Tesoro indicizzati all'inflazione europea, assegnati oggi appunto in asta. Il nuovo CCT, il CCT EU, offerto per la prima volta, come dicevo, è stato collocato per un ammontare pari a 2 miliardi e mezzo di euro, spuntando un rendimento lordo dell'1,70. Lasciamo la borsa, lasciamo i mercati finanziari e andiamo al tema di oggi. Allora, quanto spenderanno quest'anno le famiglie italiane per mandare i bambini a scuola, i figli a scuola, ma non tanto i bambini, anche più grandi? Ovviamente il tema non è il corredo scolastico complessivamente, oggi vorrei proprio focalizzare l'attenzione solo ed esclusivamente sui libri di testo, perché su questo tema le novità normative degli ultimi anni sono state tante, tra l'altro sono anche tutte ben consultabili e spiegate sullo stesso sito del Ministero dell'Istruzione, e però a quanto pare poi tutto quello che viene, come dire, stabilito dal punto di vista legislativo, come denunciano molte associazioni dei consumatori e anche molte associazioni dei genitori soprattutto, in qualche maniera non viene ottemperato alla lettera, non viene rispettato, si trova un po' sempre l'escamotage per non rispettare tutto alla lettera tutto quello che viene dal punto di vista legislativo stabilito sul fronte del contenimento della spesa per i testi. Tra l'altro vengono fissati ogni anno dei tetti di spesa da parte del Ministero dell'Istruzione e questi sono tetti di spesa che devono rispettare le scuole. Anche qua ogni anno c'è la stessa identica polemica che viene enfatizzata dalle associazioni dei consumatori, secondo la quale appunto una minima parte di scuole italiane rispetta questi tetti, tutte invece sarebbero appunto portate a sfondare questo tetto. Allora, da che cominciamo? Cominciamo proprio dai genitori. Davide Guarnieri. I problemi di quest'anno, io ne ho elencati un po', ce ne sono altri che denunciate, che lamentate, dei quali mi sono dimenticata? Direi, facciamo una considerazione complessiva. Lei diceva il corredo scolastico non è oggetto della puntata di oggi. Magari allora, ci torneremo. Prendiamo un esempio, posso dire il mio personale. Mia figlia si iscrive in prima superiore. Ah, beh, quindi io proprio... ho 4 figlie, quindi li ho un po' ovunque. E il tetto previsto dal Ministero è di 320 euro per il primo anno del liceo classico. Ecco, classico. Ho fatto qualche minuto fa la somma, abbiamo 366 euro di spesa più alcuni testi consigliati che si sa che poi sono di fatto necessari. Nel corredo scolastico dobbiamo anche comprendere i vocabolari, e sono una spesa ovviamente in più, gli strumenti tecnici e tecnologici, matite, compassi, queste cose, i viaggi di istruzione che se sono di istruzione valgono, le visite didattiche eccetera. A ciò si aggiunga come spesa complessiva il contributo volontario che la scuola richiede a tutti, sì, i genitori. In questo caso quanto le costa? È diventato però praticamente obbligatorio, sappiamo bene, per la sussistenza delle scuole, nel nostro caso è di 165 euro. Questo è l'avvio dell'anno scolastico per ciò che è necessario. A ciò si aggiunga, nel nostro caso superfluo non esiste perché con 4 figli è impensabile, ma per altri ci può essere anche superfluo. No, comunque allora fermiamoci, ha fatto bene a darci una descrizione ovviamente di tutto quello che è il budget esatto che vi serve. Vorrei fermarmi sul tema della scuola, perché come sa poi gli editori ogni anno sono oggetto bersagliati da tutte queste polemiche, perché poi al di là del fatto che il Ministero fissa i tetti di spesa per la scuola, poi chiaramente finiscono sotto tiro anche gli stessi editori, perché vengono accusati ovviamente di variare ogni anno la politica dei prezzi, adducendo a tutte le motivazioni e a tutte le scuse che possono essere trovate, e poi scuse relativamente perché ci sono anche delle condizioni economiche che cambiano. E poi io ci vado su questo aspetto con Etel Serravalle. Volevo sentire però Mario Rusconi, vicepresidente Rusconi dell'Associazione Nazionale Presidi, perché Perché leggendo e documentandomi sul sito del Ministero dell'Istruzione, leggo che l'adozione dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse o di classe. E allora io, in questi consigli ci sono anche i genitori. Mi spiega intanto quanti genitori partecipano? Ovviamente, preside, chiaro che lei potrà parlare per la sua scuola, ma credo che conosca anche, come dire, un raggio d'azione un po' più ampio. Quanti genitori partecipano a queste riunioni? Appunto, come sono attive anche le famiglie nella individuazione dei libri di testo? Come fanno ad essere competenti anche in questa materia? Perché poi anche ne va ovviamente del loro bilancio destinato a questa spesa. Ecco, lei ha toccato un punto cruciale: non solo la partecipazione non è molto attiva, diciamo, nei consigli di classe e interclasse, ma non è molto attiva neppure nelle elezioni. Spesso noi ci troviamo a non avere genitori eletti nei consigli di classe, perché evidentemente non c'è questa affezione, non c'è questa motivazione a partecipare. Questo è chiaramente un dato negativo che si riflette un po' poi sull'attività didattica. Circa lo sfondamento del tetto, io dico ai genitori, ma lo dico come preside, al di là della mia dirigenza nell'ambito dell'associazione presidi, cioè se voi notate che c'è una cosa, questo è un principio basilare di educazione civica da insegnare anche ai propri figli, che si viene diciamo così aggirata in questa maniera clamorosa una legge, fate un esposto scritto, lo mandate al direttore dell'USR, ufficio scolastico regionale, provinciale, vi rivolgete al preside, cioè noi presidi dobbiamo essere garanti della legalità. Io e molti miei colleghi, quando vediamo che c'è uno sfondamento plateale, non un euro, due euro, interveniamo, e in collegio dei docenti io non faccio procedere a quell'adozione, perché mi devo sintonizzare su quello che è l'intendimento del mio Parlamento, delle istituzioni che presiedono la scuola. Presidente, lei è sempre presidente del liceo Newton a Roma, no? Liceo scientifico Newton. Ecco, sì, qual è il tetto di spesa per la sua scuola? Poi chiaramente non so se qua il tetto si riferisca ovviamente da una classe ad un'altra. No, il tetto di spesa mi sembra che siamo sui 280 euro 280. Il primo anno, più o meno, ma riesce a mantenersi in questa cifra? Ma sì, ma perché tutto si dipende poi un po' dall'organizzazione. Se gli insegnanti un mese prima, diciamo, dell'adozione dei libri di testo, che avviene a maggio, se agli insegnanti viene dato un foglio con tutte le indicazioni dei libri, con i codici meccanografici e così via, l'insegnante che poi mi porta, il coordinatore che mi porta il foglio in cui vedo 400 euro, lo chiamo, dico: professore, lei sta andando al di là di quello che la norma prevede, io questa norma tra l'altro non solo la faccio applicare ma la condivido, per cui me la deve cambiare, insomma, cioè è un richiamo un po' alla responsabilità di noi presidi, degli insegnanti e dei genitori, che quando vedono l'esito dei loro diritti intervengano. Adesso paradossalmente poi vorrei dare magari anche questo suggerimento alle famiglie: qualora magari fino a questo momento non avessero preso nella dovuta considerazione questo problema, magari adesso è chiaro che ormai le scuole sono state scelte per chi deve andare alla scuola superiore, ma magari partire con un bel po' di anticipo e valutare anche la capacità della scuola, per esempio, di rispettare questi target, potrebbe essere anche questa un criterio forse di scelta, preside, non lo so, adesso sì, magari così siamo partiti. Ma infatti dico, la scuola deve essere una palestra di legalità anche non solo nell'insegnare ai ragazzi, ma nel rispettare in prima persona le norme. Vorrei fare un'altra precisazione: poi nel primo anno si troveranno i genitori, il genitore che prima vi ha scritto dicendo che non trovava i libri di testo usati, tenete conto che è entrata in vigore la cosiddetta riforma Gelmini, che prevede materie nuove, che prevede, non so, allo scientifico, per esempio, chimica non c'era il primo anno, quest'anno c'è, il latino aveva 4 ore, quest'anno ha 3 ore, i libri di testo sono cambiati, fisica non c'era il primo anno allo scientifico, quest'anno c'è fisica. Ecco perché ci si trova a non trovare, magari non è che voglio giustificare, interessi e azioni editoriali, insomma, voglio dire però quello che probabilmente sta succedendo, insomma. Benissimo, allora sì, infatti, quindi magari potrebbe anche essere accaduto questo all'Istituto Geometri a cui questa signora Maria Teresa ha scritto il figlio. La scuola oggi al centro dell'approfondimento di Salva Danaio, perché molte famiglie sono alle prese anche con l'elaborazione della lista della spesa da qui a settembre, quanto si spenderà per il corredo scolastico, ma soprattutto stiamo focalizzandoci sui libri di testo alla luce della riforma, appunto, e la riorganizzazione della scuola superiore, ma anche alla luce delle normative recenti che sono intervenute. C'è per esempio questa legge di cui leggo sul sito del Ministero dell'Istruzione, la 169 del 2008, che ha modificato in maniera sostanziale e significativa la durata delle adozioni dei testi scolastici. Le adozioni effettuate in base a questa normativa avranno una durata quinquennale per la scuola primaria e di 6 anni per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Voi capite quante aspettative possono riporre le famiglie rispetto a questa norma, ma poi riscontrano nella pratica che in qualche maniera la scuola gira questa normativa e costringe ogni anno a rinnovare ex novo il corredo appunto dei libri di testo. Faccio sentire un paio di testimonianze e poi naturalmente faccio anche una bella chiacchierata con il responsabile del settore educativo dell'AIE, dell'Associazione degli Editori Italiani, la dottoressa Etel Serravalle. Però intanto animiamo un po' e vivacizziamo la nostra trasmissione con l'esperienza di due papà, e tra l'altro vedo che ci stanno chiamando molte famiglie con delle con un corredo di figli molto ampio, famiglie molto numerose. Complimenti. Claudio da Novara, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, senta, il mio caso è un po' diverso, logicamente. Io, le mie figlie hanno 17 anni, quindi frequenteranno il quarto anno delle superiori. Vabbè, però siamo... Ecco, quindi, ma nonostante questo, io la mia lista della spesa ammonta a circa 400 euro. A testa o comunque riescono a dividere le due... No, sono 2,80 una e 120 l'altra, ecco, per più o meno... Ecco, e perché con nell'elenco dei libri fornitomi dalla scuola, praticamente sono tutti testi nuovi, di nuova edizione. Hanno mantenuto solamente quello di religione e di educazione fisica per i 5 anni, e gli altri tutti cambiati. Mi scusi, c'è pure il testo di educazione fisica, perché questo mi sfugge, si vede che io sono andata a scuola proprio nel Medioevo. E fanno anche sì, c'è anche il testo di educazione fisica, lo devo comprare al primo anno. Claudio, la ringrazio, sì. Quello hanno mantenuto, poi per il resto... Benissimo, quindi anche dal terzo al quarto anno il salasso non è da meno rispetto al passaggio dalla scuola media a quella superiore. Voglio sentire anche Roberto da Modena. Buongiorno, la mia testimonianza sono due cose che volevo segnalare. Io ho 3 figli, uno l'anno scorso hanno iniziato, uno la prima media, l'altro la prima superiore. A parte che quella della prima superiore ho speso 60 euro in meno per iniziare l'anno scolastico come libri di testo, purtroppo sono stati bocciati tutte e due. All'inizio, 60 euro in meno rispetto a quanto aveva speso per la... Rispetto a quello che è andato in prima media. Ecco. Ho speso 60 euro in meno per la prima superiore rispetto alla prima media. Sì. Poi è successo che purtroppo sono stati bocciati tutte e due, mentre in prima superiore sono cambiati 2 libri e ho speso 30 euro, in prima media hanno dovuto spendere 145 per rifare un'altra volta la prima media. Benissimo. Roberto, grazie anche a lei. Io non so da chi andare, per la verità. Adesso chiedo ancora alla dottoressa Serravalle di aspettarmi. Mario Rusconi, che cosa è successo in questi due casi? Guardi, ripeto, non so che qual è la, diciamo, la fattispecie che può essere, diciamo, accaduta. Almeno per questi due bocciati mi aspettavo che da un anno all'altro, quantomeno. Almeno che non abbiano cambiato sezione, perché c'è anche il fatto che spesso i ragazzi bocciati vengono poi cambiati di sezione e si trovano a cambiare completamente tutti i libri, non solamente quelli, diciamo, delle materie cosiddette portanti. Perché se questo non fosse accaduto, preside, avrebbero dovuto mantenere inalterato il corredo dei libri? Avrebbero dovuto mantenere inalterato correre i libri, tranne casi gravissimi da documentare di totale inefficienza, cosa che per fortuna normalmente non avviene nell'ambito dell'editoria scolastica italiana. Vorrei fare però una brevissima considerazione, forse molto poco popolare, molto poco demagogica, che un paio di scarpe da ginnastica, come io le chiamo, insomma, costa 250-300 euro. No, preside, se lei non avesse fatto questa considerazione, io le assicuro che ci sarei arrivata io, perché io la conosco molto bene. Lei è stato ospite molto spesso della nostra trasmissione e so quello che pensa anche sull'importanza di avere un libro a casa, di assaporarne l'odore, il sapore. Mi duole, e ripeto, non ho interessenze con azionarie, con case editrici. Però lei riconosce che il caso di Roberto da Modena con l'amore per i libri non ha nulla a che fare, parlando di due ragazzi a cui hanno avuto una vicenda scolastica infelice. È probabile che, diciamo, siano stati cambiati di sezione, questo posso dirlo, perché faccio un esempio: metta che il ragazzo stesse in una classe di 28-30 alunni, poi si trova l'anno dopo che nella stessa prima classe c'è un bambino handicappato, non possono essere più di 20-22 alunni, magari viene spostato, insomma, ipotizzo, però non so qual è la situazione. Io dico sempre, quando voi vedete però, voi genitori, ma io dico anche agli studenti, lesioni di quello che voi ritenete sia il principio di legalità anche da questo punto di vista, ma intervenite, il preside deve essere un garante della legalità, così noi lo interpretiamo. siamo, insomma, non dobbiamo essere degli esecutori passivi di volontà magari demagogiche di qualcuno, insomma. Poi magari andiamo al classico e al passaggio dal terzo al quarto anno, e anche qua un altro bel salasso per Claudio, che ci ha raccontato il suo caso. Dottoressa Serravalle, non mi sono dimenticata di lei, però volevo sentire anche un po', visto che in ogni caso le come dire, anche storie che abbiamo proposto fino a questo momento attengono un po' al comportamento della scuola, ai testi che scelgono e al corredo dei libri, appunto, che la scuola adotta. Detto questo, chiaramente anche voi venite tirati in ballo abbastanza frequentemente, perché da un anno a un altro, ad un altro, per il medesimo corredo scolastico, magari, che ne so, due mamme si confrontano e da un anno ad un altro, in tempi diversi, devono mandare per esempio il figlio in prima superiore, in prima liceo, piuttosto che in prima media, e riscontrano che da un anno all'altro, magari, ecco, per il medesimo corredo scolastico di libri di testo, i prezzi sono variati e aumentati. E voi, so che vi siete difesi molto spesso rispetto a questa polemica, adducendo che chiaramente da un anno ad un altro, per esempio, leggo qui un'intervista che ha fatto un suo collega Ulisse Iacomuzzi, che è il presidente del gruppo dell'educazione dell'AIE, che dice, insomma, se nel 2008 ho stampato le copie di un libro che poi devo ristampare l'anno successivo, magari può essere aumentato il costo della carta, il trasporto può essere aumentato, la benzina, quindi ci sono tante voci di spesa che anche voi dovete sostenere. Dottoressa Serravalle. Sì, voglio dire che i dati statistici dicono che siamo nell'ordine degli aumenti quando ci sono stati dell'1%. Dico quando ci sono stati perché in molti casi sono state proposte nuove edizioni a prezzi inferiori alle precedenti, che quindi rendono la nuova offerta interessante. Ecco, ma come mai le famiglie non hanno sempre la percezione che le scuole non suggeriscano mai invece ciò che costa un po' meno, anche se poi il mondo dell'editoria propone alternative più convenienti? Ma le famiglie, è stato detto precedentemente, farebbero bene, io sono molto convinta di questo fatto, farebbero bene a seguire la fase in cui si matura la decisione. Il preside lo ha ricordato e mi sembra che sia veramente fondamentale, perché questo spiegherebbe anche eventuali modifiche di scelta che si giustificano col fatto che il testo è più appropriato, è più adeguato. Poi voglio dire due cose sulla normativa vigente. Ecco. Allora, la normativa vigente innanzitutto prevede che vengano fissati i tetti di spesa. E infatti ne abbiamo parlato. Quest'anno non sono stati neanche fissati e sono gli stessi dal 2006. Io le esorterei tutti a fare i conti fra ciò che spendevamo nel 2006 e quello che spendiamo nel 2006. Sì, vabbè, abbiamo anche avuto una crisi che, per la verità, abbiamo scompaginato anche avuto, un po'. Certamente, l'hanno avuta tutti la crisi, anche gli editori, mi creda. Hanno avuto questo, ma il fatto che non siano stati ancora fissati i tetti di spesa agli editori, che cosa comporta? Ieri è uscito il decreto che fisse i prezzi dei libri della scuola primaria, che, come è noto, sono dati a tutti gratuitamente dallo Stato. Sì. Ieri sono stati fissati i prezzi della scuola primaria, i tetti di spesa non ci sono e sono sempre gli stessi da 4 anni, quindi c'è già anche uno sforzo certamente degli insegnanti a mettere insieme il menù necessario e indispensabile, e anche da parte degli editori, che ovviamente devono cercare di contenere al minimo, e torno a dire, siamo nell'ordine dell'1%. Benissimo, dottoressa Serravalle, però no, ecco. Devo aggiungere anche un'altra cosa a proposito di alcuni cambiamenti che sembrerebbero andare in conflitto con la legge secondo la quale il testo deve restare, l'adozione deve restare inalterata. Bene. C'erano libri in adozione da 5 o 6 anni. Chi l'anno scorso non l'ha modificato, l'ha modificato quest'anno perché la legge non poteva ricadere su un testo stampato 5 anni prima o edito 5 anni prima, giusto? Quindi c'era un'eccezione. È come se si fosse azzerata la situazione. Ripartiamo, ecco, dei libri nuovi di quest'anno, in sostanza. In alcuni casi ci sono stati dei cambiamenti soltanto perché il testo l'anno scorso non era stato cambiato quando è partita la norma che regola la non modificabilità delle adozioni, e l'adozione nuova è avvenuta quest'anno perché il libro era già presente nella scuola da 4 o 5 anni. Quindi questo è un dato che era esplicitamente detto anche nella circolare. Quindi in sostanza su questa novità normativa non era ragionevole aspettarsi un beneficio economico immediato, perché comunque volevo chiedere una conferma su questo punto al presidente dell'associazione genitori, a Guarneri. Certamente quest'anno è un anno un po' particolare, perché tutto riparte da capo. È una fase di passaggio. Questo è vero, lo confermiamo anche noi, così come è evidente che negli anni anche i costi di produzione sono tenuti ad aumentare. E quindi qui abbiamo dato una risposta a Maria Teresa, che era la mamma, l'autrice di questa lettera da cui siamo partiti. È per questo che lei non ha visto tutti i vantaggi rispetto a questa novità teoricamente rivoluzionaria. Ecco, sì, perché effettivamente bisognerebbe ragionare sulla praticabilità concreta di alcune testi normativi, per cui bloccare per 5 anni, poi ci sono sempre gli escamotage per uscire da questo. Qualche considerazione, se possibile, vorrei farla, intanto ringraziando il professor Rusconi, che conosco anche personalmente, può essere molto corretto e molto competente. Sulla partecipazione dei genitori, allora, quale cliente di un ristorante va in cucina e verifica quali sono gli ingredienti? Però di fatto non c'è neanche nessuno che dà questa facoltà, qui invece abbiamo delle normative precise. Francamente che abbiamo una norma, una consuetudine in questa norma, però di fatto è difficile che i genitori partecipino alla scelta dei libri di testo, quando ci si deve anche fidare della proposta che viene dai docenti. Semmai l'invito continuo è quello al controllo rispetto al tetto fissato. Il costo, esatto, più di lì i genitori, io non saprei dove mettere le mani, dovendo dare un suggerimento ad un insegnante su un libro di storia da scegliere se è meglio l'uno piuttosto che l'altro, ma figurami, posso basare sulla qualità estetica, ma sul contenuto figuriamoci. Rispettata la professionalità dei docenti. Questo assolutamente è doveroso. Il tetto è molto criticabile, come abbiamo appena sentito, e mi pare anche criticabile quanto il Ministero, in un incontro con le associazioni dei genitori, a noi ha detto che esprime soddisfazione perché circa il 50-60% delle scuole avrebbe rispettato il tetto, il che vuol dire che c'è un 40 o 50% di scuola che non lo rispetta. Se già il Ministero esprime soddisfazione per una norma che non viene rispettata, a maggior ragione cosa possono fare i cittadini? Infatti, adesso qua chiaramente non è che nessuno pretende che il Ministero si metta a sanzionare la scuola se sfora i tetti di spesa, però magari insomma che si fa. No, tra l'altro poi magari mi piacerebbe sapere effettivamente che tipo di, non dico provvedimenti, ma vengono fatte delle segnalazioni rispetto alle scuole che non ne rispettano questi tetti. Insomma, il Ministero è del tutto silente rispetto ad una situazione di questo tipo. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Chiaramente molti di voi potranno chiederci perché non avete sentito il Ministero allora, se avevate queste domande da fargli, perché a quel numero di telefono là non risponde mai nessuno, purtroppo. Questo è quanto è capitato, io non so cosa dirvi, e quindi questo è. Però abbiamo la scuola, abbiamo il presidente Rusconi, e quindi il rappresentante della scuola ce l'abbiamo. Tante le ricette sul risparmio su questo tema che ci arrivano dagli ascoltatori al 349 238 6666. Ho ovviamente, ci dice Maria, con internet, dove ho trovato quasi tutto usato e ho già quasi tutto a casa. Maria, insomma, da esperienze, come dire, virtuose come la sua, invece siamo a raccontare stamattina esperienze di tutt'altro tenore, quindi evidentemente, come sempre, la verità starà nel mezzo. Si potranno trovare dei libri di testo navigando su internet, andando a libreria dell'usato, utilizzando tanti canali, e poi però, insomma, un minimo corredo anche nuovo bisogna prenderlo. Ovviamente, figuriamoci quanti suggerimenti stanno arrivando sul libro digitale. Se spendessimo 300-400 euro per ragazzo per un iPad, risolveremmo il 70% del costo e sarebbe una rivoluzione culturale. Ma io credo che molto lentamente probabilmente ci andremo verso questa strada. Presidente Rusconi, che dice? Guardi, io vorrei aggiungere alcune cose, forse un po' anche queste un po' dissonanti. Uno, bisognerebbe puntare molto sulle biblioteche di classe. Purtroppo le classi italiane, le aule non sono attrezzate come laboratorio, come si vede nei filmetti americani. Questo invece dovrebbe essere una via maestra. La biblioteca di classe permetterebbe di avere meno testi e un uso invece più frequente. Due, bisognerebbe... Ma vorrei anche dire, non per andare in biblioteca, prendere il libro e fotocopiarlo tutto quanto, ma perché c'è anche qualcuno che sta lanciando questa idea, la dottoressa Serravalle, ma magari mi ha già mandato anche qualche accidente, detto. Infatti, no, la biblioteca di classe è proprio all'interno dell'aula stessa. Due, il comodato d'uso, insomma, dal momento che per una serie di anni saranno bloccati i testi, la cosa migliore sarebbe che la scuola potesse comprare questi testi, magari riuscendo ad avere da librai anche costi piuttosto bassi, e poterli appunto poi riciclare e ridistribuire l'anno successivo. Ma insomma, le scuole ce l'hanno questa opportunità, perché è tanto difficile praticare questa strada, Presidente? perché richiede una forma di organizzazione che per una serie di motivi le scuole non hanno. E però laddove io posso dire, scusi se faccio una citazione personale, moltissimi anni fa, quando ero ancora un giovane insegnante, l'ho provato in una scuola della periferia romana e le assicuro che ha funzionato bene. Però d'estate io rimanevo con gli altri miei colleghi volontari di luglio a mettere a posto i libri, scocciati, eccetera. Non è molto facile. Quanto è questione tante volte di buona volontà all'interno del mondo della scuola, di preside, insomma, magari attivo, pieno di iniziativa come lei, quante volte? Ma poi, per carità, io conosco bene il mondo della scuola perché ho una sorella che fa l'insegnante, è molto giovane, lei insegna ragazzi di 20 anni, perché fa la scuola superiore, in genere gli capitano il quarto, il quinto, e quindi è molto complicato anche l'iniziativa, come dire, viene sul nascere un po' smorzata, qualche volta è difficile, però credo che dipenda moltissimo anche proprio dalla singola individualità di chi sta alla testa della scuola, le figure come la sua. Ecco, poi c'è un altro problema che riguarda invece i tagli della legge finanziaria, cioè nel momento in cui la legge finanziaria taglia moltissimo alle regioni, le regioni taglieranno là, soprattutto in ambito scolastico, purtroppo sappiamo che è un settore ritenuto poco valido in genere, e quindi ci saranno meno gratuità, per esempio meno borse di studio, come le dico io, per quanto riguarda gli studenti meno abbienti. Questo è un grave danno. Si potrebbe in parte risolvere, una norma che il Parlamento potrebbe fare in 2 minuti, ma so che fu proposta 25 anni fa, nessuno mai poi l'ha applicata, di eliminare la gratuità dei libri di testo nelle scuole elementari, dandoli gratuitamente solamente ai figli delle persone, non dico povere, ma insomma, diciamo, di una media situazione. Cioè il figlio del grandissimo professionista che va alle elementari a Roma, Milano, Napoli, non paga una lira per il libro di testo. A me sembra veramente un'insensatezza. Una cosa. Poi so che altre proposte per alleggerire questa spesa ce l'ha anche Davide Guarneri dell'Associazione dei Genitori, adesso lo sento, però di genitori ancora voglio parlare, voglio sentirli. Flaminio della provincia di Brescia, buongiorno. E non a caso chiamo lui per primo adesso, perché è un rappresentante nella scuola dei propri figli, credo. Flaminio, buongiorno. Buongiorno. E lei partecipa alla scelta dei libri di testo? Sulla carta sì, ma in pratica assolutamente, mi trovo sempre la ricetta pronta. Può abbassare la radio, Flaminio, perché sentiamo un eco un pochino fastidioso per noi, grazie. Non ho la radio però. Sentiamo l'eco, vabbè. Dicevo che come rappresentante interclasse, ogni volta che c'erano le riunioni sulla scelta dei libri o di altre cose, io avevo sempre la pappa già ben servita da parte degli insegnanti, con nessuna possibilità di intervenire. Possibilità di intervenire. Lei ha mai contestato, per esempio, la spesa complessiva che doveva essere sostenuta per comprare tutti i libri, Flaminio? Ha mai polemizzato in questo senso? Magari con... Sì, ho polemizzato con gli insegnanti, perché trovo e ritengo anche, visto che c'è il preside lì, che molti libri si può fare a meno di reiterarli con nuove edizioni, che poi sono argomenti sempre quelli. Sempre quelli. Tipo, libri di matematica. Cioè, innanzitutto chiariamo che insegnare a un bambino o un ragazzo incide il 90% un insegnante e il 10% un libro. Flaminio, riteniamoci ai libri, però è vero, un'altra considerazione che viene spesso fatta quando si tratta questo argomento è che effettivamente a volte bisogna comprare un libro nuovo, ma magari rispetto alle ultime 2 edizioni precedenti sono cambiate 2 pagine, ma questo in ogni caso comporta che il mondo dell'editoria ne immetta sul mercato una versione completamente nuova e il prezzo differisce notevolmente. Dottoressa Serravalle, la faccio intervenire su questo punto, se vuole poi... Innanzitutto io ritengo che si dovrebbe dire quali sono questi libri dove sono cambiate 2 pagine. Veramente è una... Mannaggia, non ne ho sotto gli occhi. Gli anni. Non è esatto, tra l'altro c'è un codice di autoregolamentazione degli editori. Magari cui... qualche cartina geografica sì, però. Forse quella sarà il caso di cambiarla. Certo. Se le regioni nel mondo modificano il loro assetto territoriale, quindi questo. No, io volevo piuttosto intervenire sulla questione dei prestiti d'uso, comodato, sì, eccetera. Queste sono cose, e l'ha detto molto bene il presidente Rusconi, che creano un lavoro aggiuntivo per gli insegnanti, se gli insegnanti si sentono di affrontare questo onere, perché il libro non può essere ritirato a fine d'anno, messo lì e poi riconsegnato l'anno successivo, va verificato se è stato mantenuto integro. Quello potrebbe essere però un buon lavoro di cui si incaricano ad esempio i consigli interclasse, ad esempio nel coinvolgimento con i genitori. Un lavoro in cui intervengono anche. Adesso facciamo lanciare questa proposta all'associazione di Guarneri. Sì. Perché il lavoro di consegna del libro significa avere verificato se il libro è in uno stato per cui può essere passato ulteriormente con l'andare del tempo. E quindi questo è uno dei punti in cui la presenza del genitore può esistere. Il genitore non è detto che debba scegliere il libro di latino più appropriato perché non è il suo mestiere, non è la sua professione, però una idea dei criteri che vengono adottati, questo penso che potrebbe essere comprensibile a un genitore senza ledere la professionalità degli insegnanti. Dottoressa Serravalli, io devo salutarla perché abbiamo un minutino di tempo prima di chiudere e non riesco neanche a sentire due papà, Domenico da Roma e Giampiero da Legnano, che comunque volevano intervenire proprio sull'utilizzo di internet per poter ovviamente alleggerire questa spesa. Volevo però chiudere con i genitori, perché la nostra è una trasmissione di servizio, si rivolge alle famiglie, oltre che ai piccoli risparmiatori e piccoli investitori, ma si rivolge alla famiglia e alla gestione del suo budget familiare. Rispetto a tutto quello che abbiamo sentito questa mattina, Davide Guarneri, presidente dell'Associazione Nazionale dell'Associazione Italiana dei Genitori Onlus, diamo qualche indicazione pratica alle famiglie quest'anno per poter affrontare serenamente questo impegno di settembre? Poi magari ci risentiamo un po' prima dell'apertura dell'anno scolastico di nuovo, alla ripresa di Salvadanaio. Sicuramente lavorare sugli acquisti collettivi è comodato tutto. E qui è già anche un impegno delle associazioni di genitori, molte associazioni di genitori nelle scuole lo stanno facendo, anche incorrendo nel rischio del mancato rispetto del diritto d'autore, eccetera. Per cui la proposta può essere, visto che siamo in tre in linea, un tavolo al più presto tra genitori, associazione preside e AIE per dirimere la questione del diritto d'autore, visto che il Ministero non ci ha aiutato molto in questo e la finanziaria prevede invece che sia possibile il comodato d'uso per le associazioni dei genitori. Seconda proposta è che nei piani dell'offerta formativa il più possibile si vada verso così una omogeneità di istituto. Non è pensabile che dalla sezione A alla sezione B tutti infatti la questione di prima di Rusconi, libertà di insegnamento non corrisponde ad arbitrarietà dell'insegnante, cioè una medesima prima media, il passaggio da una prima media, una persona viene bocciata l'anno successivo deve fare la prima media, se capita in un'altra sezione deve cambiare totalmente tutti i libri, ci sembra assurdo. Guarneri, devo salutare, ha un ultimo consiglio? La detraibilità delle spese benissimo scolastiche e dei libri scolastici. Insomma, la manovra finanziaria nuova magari che raccolga e recepisca anche queste indicazioni delle famiglie. Vi richiamo sicuramente tutti quanti poco prima dell'avvio della scuola. Grazie a Davide Guarneri, a Mario Rusconi, a Etel Serravalle e Salvadanaio per l'ultima puntata di questa stagione. Torna domani, buona giornata a tutti.